uscita. Niente di colore, uscita. Boh, non ti capisco, cioè sei troppo basso. Boh, sono fuori baracchino, ti sto sentendo basso. Boh, le altre volte ti sentivo meglio. Sì, vabbè, ma hai sentito una ombra. Sicuramente hai sentito una ombra. Boh. E allora è per quello. Sì, adesso sì, adesso ti sento meglio. Ciao, ciao, ciao. Cosa c'è? Cosa c'è? Eccoci. Fatta bilancia, o no? Oggi hai parlato di sì. Ma già. Chi è? Sono più forte, lo sai. Ah, sempre tu sì. Pensavo di un altro più forte di te. Perché? Pensavo che ce n'era un altro più forte di te. Dipende, dipende. E io lo sai, ne so con voi. A culo. La pagata. C'è freddo però fuori, capo. Ho chiuso la finestra. No, io ce l'ho più, fa già più di un'ora. E qua, lo stiamo avanti attaccato alla 4. Sono in trinco, siamo appena di 19 gradi. No, qui ce ne sono 24. Qui c'è a vento, una mandata d'aria calda. Qua siamo a termosifoni, quindi ci vuole il tempo. Senti, a parlotto. Aiuto, finiscimo, a passo a pigliarti. Non devo andare, non sai dove guardare io. Il dovere. Siamo madonna. Fatto il giro a Brico, a Hellup, mi sto annoiando a casa. Sono qui appoggiato di nuovo che sono appena di zinco. Andando all'otto. Io prendai un museo a passeggiata lì a Colo, al cinamericano. No, non esce mai, Anna. Di mattina magari sì. Ma stavami, ho il telefono con Ilaria che l'ha mandata a prendere due cose all'Eurospin. Stamane sono andato io, a voi sono andato a prendere un pane, a voi avevo mandato la migliore. Ehi, vabbè, dimenticante magari. No, non sono dimenticante, quello è essere proprio rincoglioniti. Vabbè, cosa vuoi che ti faccia? Bene, sta andando, sì. Cappa già, benissimo. Se c'è ancora il telefono spento, io aspetto l'accento. Mi ho acceso il telefono, io lo spengo sempre dopo il pranzo. Tra Vodafone, Rido, Vidrata, rompe bocca le balle. Aspetta un attimo, claro, sono al telefono. Cappa. Cappa già. Sei tu, ma quando la visione va in occhi. E come? Nunca sto parlando Massimiliano. Poi dammi insieme Biel, cattivo che capito che grande fratello è insieme imbecille di Goggia, di Barbara Russo, ma e cosa vuoi fare? No, a me mi hanno appena avvisato per vedere l'orario di domani mattina, là, stavo lasciando la macchina e tutto. Cioè, ma vengono loro a prenderti come fanno sempre? Sì, sì, sì, sì, vengono loro. Siamo dalle 7 alle 15. Tutta una tirata? Vabbè, ci fermiamo l'ora di pausa. Va? Ah, ecco, allora già va bene. Sì, insomma. Insomma, noi così andi a Seveda, però. Già parlo di vabbè. Ma quello che mi scoccia per domenica, viene lì a carica, non vedi nessuno e lasciava anche un po' giorno ributtato, non mi fermo male. Ma non puoi mettere... Dove che la puoi mettere? Mettiamo dove c'è la Temosa, la piazzola della Temosa. No, la lasciamo lì dove c'è Columbano, capito? Però magari domani Columbano, che col giorno aperto, quindi c'è sabato, capito? E via vai dalle macchine, va bene, ma domenica non c'è nessuno. No, domenica è aperto Columbano, sino alle 2. Sicuro che sì. Poi è grande, tranquillo. Passiamo io tutte le domeniche mattina. Vai tranquillo, Columbano. La domenica, durante la settimana per le 6, la domenica e sabato domenica per le 7, fa dalle 7 alle 1 e mezza, poi tra fare pulizia e tutto, ma a volte anche sino alle 2 era aperto, sino a quando c'è gente. Il tabacchino è chiuso, ma il bar è aperto. Allora che fa bene. Tranquillo, sì, non so perché quando mettevo la macchina a carica la domenica mattina ci fermavamo con i colleghi a prendere l'aperitivo, capito? Poi sono sceso anche da poco. Sono sceso anche da poco di domenica mattina. E un collega mi aveva detto appunto di trovare. trovarci lì ed era aperto. Allora la grande, va bene. Va bene, va bene. E poi il traffico già è abbastanza trafficato, non c'è problema. Puoi metterla lì, puoi metterla riformitore. E a voi. No, mani dei parcheggi di Colombano è a posto la mano. L'ho lasciato anch'io qualche volta, anche di notte. Ci ha parlato anche no. Quello mi preoccupava un po'. Che non era molto molto ideale lasciarla lì. Mettila, se trovi il posteggio, mettila davanti al bar, ci sono le telecamere. Sì, perché lo metto io di fronte a lì, non ho le telecamere. Sono le telecamere del distributore, no? Ehi, ehi, ehi, infatti, no, no, tranquillo. Mi va benissimo, non bene, benissimo. Ho lasciato anch'io fino a tarda serata, là. Trovamo una cena proprio lì a... vicino, colleghi dell'impianto, e abbiamo lasciato delle macchine. La Fabrioscia. Dove cosa stai andando, Cla? Col Superstar. E dove vai? Il Bip non c'è più. Come non c'è più? Cazzo che tengo io, Bip? Non lo sento. Come non lo senti? Non lo sento. Ma già c'è, però, se lo sento io, Bip. Vabbè, come chiudo il microfono e basta. E vabbè, magari perché è l'applicazione così. Aspetta. Non lo senti? No. Io già lo sento qua. Vabbè, portate, lo senti più fuori. Ah, sì, cazzo, mi muovo le cuffie. Tu, se non la radio andoia. Aspetta, io metto le cuffie perché... L'ho spento, sono andato a pranzo, l'ho riacceso adesso, il bip c'era. Muovo di cuffie. Aspetta. Ah, ma si miglia, cazzo, non c'è il bip. Non voglio che c'è il bip. Ma non si sente, io non lo sento, per quello te lo chiedo. Non si sente, già si sente, sì. Ma voglia si sente, lo sento io in cuffie. Si sente troppo, come chiudi il microfono e parte. Non si sente prima la cosa e poi il bip. Giorgio, va bene, lascialo così, va. E glielo tocca. Oramai questa è la sua posizione. Già va bene. Vabbè, tu lo senti, vai. Vale, buonasera, non so se mi ascolti. Così, ti diminuisce l'udito? Già va bene. Già va bene, Vale, va bene. Questo è sempre il Superstar con l'MB più 5, tutto chiuso, Ti si è regolato come l'altra volta, non avevo toccato il microfono. Ormai sapevo già la posizione. Ce l'ho a 5 di volume, a 4,5, quasi 5 di tono. Ma c'è l'operatore, però. Sì, però se non dici niente, no. Poi ho visto poco fa, non me ne sono accorto neanche io, ti ho chiesto che radio sta usando. Sembra un K. E infatti, sai perché c'è il VIP, se no. Però, già va bene. Ah, bacia le vuote, che c'è fra vuote il telefono. Vabbè, vorrei, tutto bene. Ho detto tutto bene, stai bene, tutto a posto, tutto funziona ok. Aspettavo, mettendo a posto le cuffie. Va bene, va bene. Tutto a posto, tutto a posto. Ma il parlascolta ce l'hai chiuso? Sì, sì, l'ho chiuso. Come mi avevi detto tu di fare? Ecco, chiuso, parlascolta chiuso, Michigan al massimo e... MB più 5 a 4,5, è quasi 5. Enrico, ma se apri per l'ascolta ti metta, giusto? Sì, sì, sì. È positivo, va. E volete provato magari con una colonnina esterna lontano? Io avevo la serve per l'ascolta. Per l'ascolta serve se non vuoi andare a colte, allora sì, allora gliela apro. Capito? Fatevi stare in posizione per staccare il microfono velocemente, inserire quello suo e dare mattana forte. Ma che propagazione non ce n'è nel 45, non c'è niente. Non ce n'è, no. Quell'altra cosa, provatela a vedere, con quello lì anche. 85 ne va. 85, col 48? No, con questo. Con questo. Con pochi watt però. È tipo? 2 watt e mezzo. Potrebbe entrare con 4 o 5 a provarlo. E allora sicuramente non vado a 100 lì là. Che cazzo, ma un picco di modulazione a 40 watt, chi sa, ma così. No. 2, 1 watt e mezzo, 2 ho provato e 85 watt modulate lì là. Quindi con la 48 abbiamo provato, già come avevi detto tu, già pompa, già pompa. Cappa Brioscia, avanti Valì. Ehi, ehi, a positivo, va bene, va bene. E così, cosa ci vuoi fare? Era carino, non c'è nessuno qua, non ho trovato nessuno. Oh, prima di 6 e mezza non c'è stato nessuno in occhi. Addirittura, ho dato l'orario, Sì, più o meno sì, ma qualche volta Natalino, sei sicuro che dopo pranzo del prima di 6 non entro? Io lo stacco un pochino, faccio una luce, faccio un lavoro a testa, barba, pulito una mazzano, una rottura di palle e niente, non si vedeva. E io, mamma, già ci siamo tutta la sera, non è un problema, è che io sono magari un po' più presente adesso, ho capito. Ehi, va bene, va bene. E cosa ci vuoi fare? Già andavo in uscita. Quindi domani mattina anche io la parte, adesso sì? Sì, adesso io devo essere libero. E vabbè, però ci manco un quarto da casa tua. Sì, io. Sto vicino lì da casa tua a Colombano, a un passo. No, lì è vicino, andare così è vicino. Perché non esci nel 131, fai dal mercato? No, ma no, 131, più vicino. Oh, più vicino. E poi da dove entri da lì da cosa? Incrocio, gli Usini, e dove avevi visto. Ah, sì. Entri da lì, sì, come facevo io, se ti entri nella serra, dove c'è la motorizzazione. Allora, ecco da lì, qua c'è la motorizzazione, più vicino. Se no deve entrare i punti e deve attraversare tutto Bretagnetta, più lontano, no? Beh, linea di massima, sì. E ci ricerco la centro casa, tutto tra la vita e via, e tu barettaggio. E già andavi, andavi. Cappa, cappa. No, dovrebbe essere tempo bello domani, non neanche controllato, tu controllato hai. No, negativo, sono guardato, con la bella giornata di oggi. Anche domani dovrebbe fare buono. E vabbè, tanto io buono o cattivo devi finire mai fuori. Devi andare lo stesso? Sì, vabbè, hanno bloccato la ferrovia qua, questa batteroletta, infatti. Stanotte lavorano, domani notte lavorano e domenica notte lavorano. Ah, per fare cosa state facendo? Qualche ponte, diceva? È un allargamento della ferrovia, capito? Per passare che cosa? La strada? No, per il treno. Ah, per il treno. Ed è lì dove? A Coso, a Fontana Pietro, non so se lo sai dove. No, ho sentito parlare, ma penso che sia quella ferrovia tra Crivani e Ostieri, quella lì. Quella è, questa rimane tra Altare e Ploaghe, capito? Ma con la strada non c'entra nulla. Sì. Ho capito, è quella zona lì, Pedesemene, come si chiama? Ho capito. Tu prendi lo scorrimento veloce, la 4 corsie. Arrivi, prova che lo lasci. Prendi per Ardara, entri per Ardara e ritorni indietro nella strada vecchia di Olbia, quella che ci spende. Passi nel soprapasso e ritorno indietro per entrare verso, diciamo, il paese di Cloaghe, no? Sì, quello lì, praticamente quell'allargamento che c'è, sì. Già andava, pensavo che era dismessa quella ferrovia. No, non è dismessa, quello è il treno Paulia. Ah, sempre lì passa, non è stata fatta nessuna deviazione? No, sempre lì passa. Io lo già va bene. Già va bene. Gappa, positivo, dai. Un secondino, così ho capito. Fai la pazzia. Gappa. Tutto a posto. Sì, vai mangiare, buon gelato, va bene. Allena. Ah? Poi sto andando. Andato, tornato e mangiato. Allora già va bene. Oia. E io non me lo mangio già. Vediamo se non li compriamo mai. Poi un croccato. No, noi già li mangiamo sempre. Sì. Dai, che non devono mancare. Così. Io me. No, domani ci me la metto, mi compagno pure lui. E a lei piace un po'. cazzo, noi ci rimaniamo a vaschetta, no? Noi non ne prendiamo la vaschetta così, a me non mi piace, lei prende quelle confette, cornetti e cose così, va. Io prendo così. Oh, se c'è la vaschetta di si buoni, a me piace. Eia. Benissimo, alla grande, no, vi dici Radio 5, Massimiliano senti col Magnum a Valeri. Sì, sì, poi la radio. Io perfettamente, e frequentemente ho un problema del Magnum. Purtroppo è un problema, sempre solito difetto, non arrivi bene, 9:10 Radio 5. Avanti Massimiliano. Ehi, guarda, sicuramente anche qua è un freno, perché questo già lo sai, è un po' raro come Smitter, capito? Sì, no, no, va bene, vale, io ti ascolto benissimo. E quante volte c'ha? 50? E che Magnum, ma l'hai toccato tu? Se avesse meno potenza. No, 6:09:10 Radio 5 qua sul baracchino, 9:10 Radio 5, ma è abbastanza preciso questo smitter. Ho controllato col 4:40, è abbastanza preciso Massimiliano, quindi i riferimenti sono buoni, eh. Avanti Massimiliano. Sì, claro, quello è uguale al Magnum 9, l'unica cosa in più che c'ha è alla pancia sotto, capito? Ha tutto il dissipatore sotto ed è la versione 175 watt è quella, però non so se mi dà tutti, mi manda laterale, si parla, certo che te lo fa. E che vuole acquistato nuovo il frequentimetro, no, io non glielo mando perché io lo stesso delle cerombe ho due tanghettine lì che sono e non si vedono, dai, il 2 e il 5. E avevo già parlato con lui e mi ha detto che doveva guardare un po', se ce lo trovava, se... No, per sostituirlo il problema non è, il problema è trovarlo. Il Magnum su eBay, cerchi il frequentimetro Magnum S9, tanto è uguale a quello, è in due pizzi, capito? E costa anche una cagata. Io non la faccio perché mi ha chiesto 70 euro la verità, ci vogliono 10 andare, 10 a tornare, più lavoro, 70 euro non fa. Me ne lascio in tasca e rimane così com'è. Cappa di Rosmetro? Va bene, va bene, sì, 9:10 pieno. Ah, ho capito qual è quello di Massimiliano, sì, l'avevo già visto. È simile a quello che aveva Sandro praticamente col lineare sotto la pancia, simile al Cobra, dai. Sì, più o meno così, va. Cosa vale? Sì, come il Cobra che c'ha Massimiliano. E io. Io. Vabbè. Chi è quello, Franco? Non lo so. Potevo tranquillamente farle qui le prove senza problemi. Ah, io vabbè, lo spostavo sempre al 15, non è un problema. Gappa. Sì, ho capito qual è questo, ho capito. Sì, c'è la pancia. La pancia ce l'hai anche tu. Sì, non lo so. Anche io ce l'ho. E chi c'è il problema? Bucanina. Ma sappia la mola. Cazzo, chi sarà? Non la tagliato, vi fate troppo male, a smerigliare, non piano. Ho cercato la foto per mandartela. Mi ricordo, sì, l'ho già visto, ma è simile a quello che aveva Sandro. Sandro non era il Magnum quello che aveva, cos'era? Lafayette, boh. Un Galaxy era quello suo. Ah, un Galaxy era, sì. Quella versione lì. Caparroggio, aspetta che cambio il radio, vediamo come mettere le cuffie, un attimino, che no, sbagliano come niente, che fare i cuffie, aspetta. Va bene, va bene. C'è nessuno sul canale 10 che vuole entrare a chiacchierare, a scherziare? Hola, 1, 2, 3, prova. Sì, già stai provando bene. Ora 1, 2, 3, tutti vai a scendere che cosa? Ma infatti non sento la modifica. No, non la modifica, no, se non sono col volume per forza lo intendo. Che su via, taglio di tuba, che faccio il tubo lì, così. Invece c'è un volume basso. Ah, quello è. Ma se vado io a fare la pipì adesso là. Sì, vai, va, adesso lo sento il pip di quello. Ah, adesso lo senti il pip allora. Ehi, guarda che ho mandato la foto. Ah, più là. Non se l'hanno mai fatto di chi si di dove, no? No, no, nessuno, stanno lavorando al prossimo grado. Uno dei tre picchi, l'altro dei tre cori, stamattina ho sbagliato addirittura un lavoro che avevo già impostato io, non si può. Che se lei vuole il problema è ballare, ma tutti i dini. Io ho capito, ma io sono ragazzi che hanno dato tanto quando c'ero io, ho capito, tutti assieme, abbiamo sempre collaborato, deciso, sai, uno un'idea, uno un'altra, perché sono ragazzi che sono abbastanza esperti. Poi le decisioni le prendevo io con referenti di zona, però capisci, così non riescono a lavorare, stanno lamentando perché non riescono a lavorare, capito? Cioè su 6 ore e 40 non stanno sviluppando neanche un'ora e mezza di lavoro, perché stanno mettono in opera, modificano, non va bene, le misure sono sbagliate, chi te le ha date, mamma mi ha telefonato lui, a me, capito? Io non è così, io col geometra seguivamo le cose, organizzavamo lavoro, si prendeva il materiale, il lavoro voleva finito per sempre, poni, garraggia, c'erano garci tutto, lampa, io ci siamo teletana, chiudeva, faceva, il lavoro è sempre andato bene, qua poverini non riescono a mantenere in piedi, mi dispiace perché ti ripeto, sono ragazzi che hanno dato tanto, ho capito? Ma bisogna che si mettano in testa un po' di obiettivo pure. Io ho capito, ma non hanno la possibilità neanche di decidere, perché sono tutti, capito, non hanno incarichi, c'è qualcuno un po' esperto che cerca di fare le cose come è stato capito, impostato, però stava dicendo proprio lui, mi ha detto caro, io cerco di prendere le redini, cerco di fare ciò che abbiamo sempre fatto assieme, con attenzione, però viene Guido, no, va, oh, che tale ti fare così, lui, buga nel tutto, allora io prendo lo scavatorino, lo scavo, apri qui, tanto Massimiliano, e come ti attenti a dire tu, sul lavoro che fai, cioè, apri qui, uno, X, un tuo responsabile, apri qui Massimiliano, ok, apri, arrivi l'altro, e che tale ti apri lì? No, tappa tutto, apri di là, sai che li vedi sopra? Mi sono vent'anni, sono diventati avanti, ne manco 20 di, ne manco, neanche 20 giorni manco, io non riesco a capire perché non ci sia stato subito un sostituto da poter inserire quando l'ho chiesto io. Si crea che ero io Gandhi, che era Buffonelli che me ne andava, sì, chi mi mette manco? Io sono l'anno scorso, dall'estate l'anno scorso che ho chiesto un sostituto ad affiancarmi per insegnare le cose che in linea di massima hanno insegnato a me e che naturalmente al momento in cui io mancavo lui riusciva ad andare avanti, non me l'hanno mai dato. E adesso si trovano in grande difficoltà chi deve lavorare perché non c'è un dirigente, non c'è un caposquadra, non c'è niente. Faccio mai idea, ma si arrangia lì. Lo so, anche per me si vuole pure piccare, però mi dispiace per i miei colleghi che, ti ripeto, con me hanno dato tanto, quindi mi dispiace solo per loro. Però io stavo dicendo, gli ho mandato una registrazione, gli ho detto, cioè non state lì a cicischiare, a fare, cercate di fare quello che facevamo tutti assieme. La mattina quando arrivate, l'ordine di servizio qual è questo? Ok, allora decidete tutti assieme, perché l'unione fa la forza. Così se nel caso c'è qualche errore avete sbagliato tutti e tutti vi assumete la propria responsabilità. Capito? Ma poi ci manda, non vi manda a casa nessuno. Comunque io intanto devo andare in ufficio in questi giorni a Cagliari perché devo portare della documentazione, ne parlo col dirigente di distretto perché non si può lavorare così, ci vuole rispetto al lavoro e uno che ha dato rispetto deve essere rispettato. Beh certo, sì, è un fatto evidente. Vendente MC60, fabbricato con pacco originale, 130 euro più 17 euro di spedizione, questo è il fulminato. E quello è fuso, non è fulminato. Ma ci vorrebbe 123 di quello nuovo, io. 125 euro nuovo, ma l'anno scorso. 60, anche se è nuovo, entro la scatola, hai usato metà prezzo, 80-90 euro, non di più. Se è nuovo, sei come te chiedo che faccio io 50 euro, c'è più che truppi. Scappa brioche. Non è così. Va bene, va bene. Che ora è? Insieme a un quarto. Allora andiamo all'otto. Giù, giù. Cosa è che è all'otto? Alle 8 a cenare, 8 e mezzo. Io sto per essere qua, alle 7 e mezzo porto il cane, cosa faccio? Rientro verso le 8, alle 8 e mezza si cena. La serata è andata. E adesso un altro paio di passaggi, poi ricambio. Facciamo il dovere, arriverò boh, 9, 9 e mezza a casa, non so. E la cosa è tutta gappa. Valerio, non l'ha ripreso? Valerio, ci sì. No, pensavo che è andato via, va. Ti ho chiamato per quello, va. Anda bene, anda bene. Sta cercando il frequenzimetro. Eh sì, no, ma magari adesso con questi commutatori già ci sono anche qua in Italia, che vogliono della stessa sigla, capito? Devono avere la stessa sigla. Ma io ti ripeto, l'avevo trovato, costava 27 euro portato a casa. Più ci volevano tra andare, tornare, lavoro, un'altra settantina di euro, ci voleva un centinaio di euro. Ho detto, portate su il numero dei canali. Poi tanto se devi andare da altre parti già c'hai altre cose. Ehi, va bene. Ma comunque conviene fare lo squillo a Leo, sentirlo. Però sicuro che ce l'abbia qualcosa e via. Va bene, dai. Avanti, là. Perché che cosa c'è? Che problema c'è nel baracchino? Hai sentito che non funziona la frequenza? Ah, del magnum. Poi, vale, lascia perdere. Lascia perdere, l'aveva portato... Chi è che l'aveva portato? L'aveva mandato? Ah, non so, non mi ricordo. O mi aveva detto che l'aveva ordinato. Se può cucuccia. No, il frequenzimetro non costa molto, qua. Io l'ho trovato a 27 euro, l'ho portato a casa. Dal Gran Bretagna. Il problema è che poi ci vogliono 10 euro a mandare la radio. Altre 10 euro a tornare alla radio, altre 50 euro per cambiarlo e ci vogliono 100 euro totale. E 100 euro la verità adesso mi servono più in tasca che non i gruppi se ne ho frequenzimento. No, ma infatti no, poi... No, io quello la verità che mi aveva dato Costanza era perfetto, ti ricordi, no? Non mi ha mai fatto nessun difetto di frequenzimento, però so da altri che il problema del magnum è il frequenzimento. Un altro messaggio, beh. Ehi, leggi. No, guarda, il mio c'ha la prima stanghettina del 2 e il 5 le manca quello centrale. Può reggere, si vuole tutto. Ma praticamente i cristalli liquidi che stanno sparendo? Oh, quello di cosa non lo so, qua sì. Sono delle cose particolari quello. Quando si brucia, anisce, frequenzimetro vuole nuovo, non si può riparare, perché anche nel 430 il mio ha iniziato così e poi non si vedeva più un cacchio. Allora Fabrizio l'aveva trovato fuori però all'estero, l'aveva comprato ma l'aveva piazzato, capito, nel 430. Tra questa di bello la radio c'è il pulsantino che spegne il frequenzimetro e ti rimane il canale, il numero dei canali, là, il display del canale romano. Per questo metto lo spegno. Sì, infatti si può spegnere, usi solo il canale, se no frutti. Però la 430 è a frequenzimetro, quindi HF, come fai? Ci aveva messo anche un bel di impegno, perché è una rottura di balla a cambiare quelle cose. Ma lui fortunatamente già è capace e bravo, quindi l'aveva sistemato. Sistemato quello, tutto messo a posto, era cominciato a andare per i vatti giù. Si spegneva, prendeva colpi, si riaccendeva, poi si fulminava sempre la lampadina, alla fine mi sono deciso. L'ho mandato, l'ho fatto tutto mettere a posto. E vabbè. Così è, il cazzo di radio vecchio, no? Meno della mano. Ognuno ha il suo difetto. È positivo. Leggi i messaggi, troppo tettini. E io lo stesso, io c'ho, guarda, il primo segmento del 2, dove ti esce il 27, no? Il 2 le manca proprio la stanghettina di sotto. Poi degli ultimi due cifre, presente, adesso. adesso siamo 27.075 e il 5 le manca il trattino centrale. Sì, è così, è più o meno, vai su con la cifra, credo, eh. Poi non so se quello lì è diverso da questo qua, boh. Intanto è diviso in due, mi c'ha 3-3, capito? Sì. Vabbè, tanto sono i fili, mi sono attaccati dei filetti e riattaccarli. Però ci vuole ci vuole il tirastagno, cioè una rottura di scatole. È strano, perché poi il cristallo liquido non è che si brucia così in 4-4-8, eh. Cristalli liquidi potrebbero, non lo so, qualche sbalzo di corrente, non ne so, Sì, qualche sbalzo di corrente sicuramente è un'alimentazione quella. Io la accendo tutti i giorni questo, proprio per questo motivo. Un giorno sono arrivato a casa, ho acceso, tanto mancava il trattino del 5. Ho detto magari già si riprende, ho lasciato un paio di giorni acceso e niente, l'ho spento. Dopo un paio di giorni riacceso, tac, la gambetta del 2. Allora, Massimiliano, quando accendi il switching, ok, stai attento, quando accendi il switching, lo accendi l'alimentatore, ok? Soprattutto il switching, lo accendi, lo lasci qualche secondo stabilizzare e poi accendi il baracchino. Non accendere in contemporanea all'alimentatore subito il baracchino. Perché sti cazzo di alimentatori, l'ha fatto anche a me, io un giorno l'ho acceso al 4.40 in contemporanea. Allora, se la luce con quanto era forte, poi si è riabbassata. Meno male non è successo niente. Allora ho spento di nuovo il 4.40, sono andato a misurarmi spegnendolo, poi accendendolo di colpo col tester, certo c'era uno sbalzo, l'accensione di 14.5 14.7 di alimentazione, poi andava a 13.5. Allora, siccome c'è la regolazione, questo che c'ho io, l'ho portato leggermente a perché era 13.8, l'ho portato leggermente a 12.8, quasi a 13, capito? Quindi stai attento, infatti adesso l'alimentazione sul baracchino, sul tuo, sul 4.40 eccetera, non è neanche 13.5, va benissimo così, stai attento, non accendere mai in contemporanea, lascialo qualche secondo stabilizzare e poi accendi il baracchino, perché può essere quello che ti ha bruciato il frequenzimetro. No, vabbè, io questa radio lo frequenzimetro ci le attaccate nell'alimentatore stabilizzato. Ah, quello a trasformatore. Io queste due ce le ho attaccate lì, l'altra ce l'ho attaccata al switch, però questa è nel coso stabilizzato e ce l'ho, la corrente ce l'ho a 13.5 qua. Io invece ho 4.40 e 4.30 sul coso, su quello a 60 ampere, mentre le altre radio ce l'ho su quello da 50 ampere. Ce n'è un altro dietro sotto da 50 ampere, di quelli qui là, capito? Ed è più stabile quell'altro che questo cacchio di coso, come si chiama, di questo a 60 ampere della, vabbè, lui. Sì, no, poi vabbè, l'alimentatore già ne ho io, già lo sai. Io attacco quello grande di lì, c'ho 14.2, 300 ampere, a parte, non vale. Se 300 ampere, non ho mai visto questo gassone che fai tu. Ma questo boxer, sono alimentatori buoni, ma quando iniziano a difettare hanno rotto le balle. E quindi io, siccome non mi sono mai fidato, allora me lo sono regolato leggermente più basso, in modo che se dovesse salire leggermente di qualche volta non mi incasinare il radio. Io se lui si metterà un po' di tua lacone, siamo arrivati. Non ho visto tu il mio alimentatore. Cazzo, l'ho visto quando lo stavate costruendo. È Valerio che non l'ha visto. Sì, siamo a Giovanni, oggi di Vulcano abbiamo fatto e siamo usciti da casa sua. Sì, quello, sì. È 24, no, corrente di più di 28, 29 ce l'ho. 29 passa pure. Sì, fa 24 e 12 anche, no? Sì, e poi ne ho 300, 24, 150, 24. Capito, lo voglio. Sì, ce ne sono dentro. Io mi preparo un attimino, lascio acceso qua, però vado un attimino a prepararmi, devo andare io, già lo sai, Cla. Sì, sì, sono qua, mi assumo il sistema a Filippo, sono già lì, però la pappa, ma comunque sono qua, non c'è problema. Quindi Vale, se tu ti fai una cosa del genere, ti puoi prendere quei 1200, quelli del camion, 1400, capito? Così proprio non è. No, già c'era ancora qualcuno che li fa, non qui, qualcuno fuori li fa, stabilizzato parliamo, questi stabilizzati così. È che ci vogliono fatto bene bene, con regolazione, tutto quanto, ci vogliono intorno ai 500-600 euro, da 150 ampere minimo, positivo là, ok, dai Claudio, riprendi, ci sentiamo dopo. KK, dai, ci sentiamo dopo che devo mangiare il cane, dopo, vai, già rientro subito, non c'è un problema. Codici, attenzione, canale 10, cambio. Là, 7, verte l'ala, T7. Eccomi qua, ci sono. Valerio. Vabbè, indigeni. Oh, cuomani. Incidenti di un giorno. Svegliatevi, ragazzi, svegliatevi. Tutti dormiti, già. Si sta bene a caldo, e anche io sotto le coperte, dico la verità. Già si sta bene. Cosa? Ah, no, cane, già l'ho già sistemato. Hai visto il nostro figlio portato a dai? Che bello, Mi ha messo quel nero per sporcare il tappeto. Foglio di nylon, che se sta mangiando. Poi qua, intanto è bello, deve essere salato. Allora, poi mi è arrivato un messaggio di un collega che lo leggo un secondo. Eccomi qua, ho messo il telefono a caricare. Te l'ho detto ieri che, e anche io devo mettere, te l'ho detto ieri che stava arrivando questa telefonata a casa, vado a rispondere spesso. Oggi non rispondevano, poi alla fine ha detto goodbye. E tu non avevi detto, vamo già in 30. Non sarà qualcuno che te ne mangia il credito. Non lo so già, anche questo è possibile, al mondo d'oggi sono tanti farabutti che a me l'altro giorno lo stesso hanno squillato e c'era scritto numero privato, non ho risposto. Anche qua c'è scritto numero privato, però anche ieri avanti ieri io volevo sapere chi era, ma magari qualcuno che mi vuole avvisare di qualche cosa e non sto rispondendo, cioè ne vado a rispondere e ti do il telefono. Lasciamo a quel tempo, gli altri che io come giù andare a rispondere ci mette un po' per alzarmi dal letto, ti piace di farmi male, praticamente quando mi alzo dal letto mi viene questo capogiro sempre questo capogiro, non aveva mai successo, dottore, ma te con l'età si fanno, viene a starsi piano, ma cosa non c'entra nulla lì, deve essere questa la meningite che ho già una. Può essere sì, ma perché non ce l'hai quello portatile in camera da letto? Cosa? Ho detto non ce l'hai il telefono portatile in camera da letto. No, cioè ce l'ho portatile, però l'ho messo in sala, capito? C'ho il cordless, però l'ho messo in sala, per non avere bucato in camera da letto. Ah, capito Dio. Va bene, va bene. Come sto andando di radio? E questo è il superstar di Massimiliano, però con l'MB più 5 è tutto chiuso. Tutto chiuso, si lapi allora. Cosa? Allora se lapi che cosa succede? Ma guarda, se l'apro non senti l'effetto elicottero, però devo mettere l'altro microfono, vedi? davanti c'è il parascotta chiuso, abbasserei, che lo puoi usare anche col microfono da tavolo, togli, ma magari non esce bene, mia, ma bomba. Aspetta che ti mando una cosa. Gappa gappa. Tanto se lo vedo la bodina fitta una cosa del genere. Allucinato. Solo loro che possono fare queste cose, fino alla lavatrice. Vabbè, cazzo, non si sente nessuno stasera, tutti catalessi, cioè, vabbè, Marco, mi pare che stiano facendo lavori a casa, forse stanno mettendo a posto la cucina, non so, qualcosa del genere. Tartarino, ci sei? Ocla. Ehi, sa mangia, Rosera, cani o cinghiali? Cinghiali. Lì non mi senti, ne se siete tutti dei cinghiali. Sai cosa mi è successo? Sono arrivato a casa, io la prima cosa che faccio è proteggere il cane quando arrivo a casa dal lavoro. Ho preso le chiavi e me le ho messo in tasca. Vado a aprire la porta in casa, ritorno. Io invece che prendere le chiavi di casa ho preso quella della macchina. Alghero chiama, avanti Alghero chiama. Avanti Alghero chiama, Sassari risponde. Sistemato e io sei ancora così. Tutto sistemato. Un po' bassino stai arrivando, ma staccato sì. Terza posizione. Le stazionali le hai controllate, hai controllato tutto. Uno e uno. Vabbè. Il microfono a quanto ce l'hai? Come l'avevamo lasciato noi? Dai il microfono. Mettilo a due. Claudio, ma con tre sta arrivando, qui se non va pieno. È un bassino, Mettilo a due, Giuseppe, il microfono. Ecco, là sono stare a due. Mettilo in quarta posizione, in quinta posizione, quel lineare, cazzo, perché ce l'hai a due. Mettilo in quinta. Adesso ci siamo, senti già. Ma te mando già. Adesso ci siamo, Giuseppe. Adesso stai andando bene, ma te l'hanno fatto loro il lavoro. Ah. E da quanto li hai fatti come lunghezza quelli del lineare? Ma è troppo, Giuseppe, è troppo, quasi un metro, cosa vuol dire? Lì va bene la 65, la 35, la 45, perché l'hai fatto così lungo? Non serve a niente, Giuseppe, averli così lunghi, intanto c'hai tutto vicino, capito? Falli più corti possibile, prendi bene la misura e ne fai uno da 45 e uno da 65, basta, capito? Uno da 65 e uno da 45, da un metro, sono troppo lunghi, cioè troppa dispersione, non va bene. No, assolutamente, non ce n'è tassativo qua, le misure sono quelle, basta, non ce n'è. Comunque stai arrivando bene così, in quinta posizione, va bene. Ascolta, la televisione la disturbi? Vedi un po', bene ti arriva adesso già. E adesso è comprensibile, è quasi 5. Vabbè, quasi 5 già va bene, dai. Qua c'ha picchi da 8 a 9, da 8 a 9 dovrebbe aver sistemato. La radio però è buona, dai, la radio è buona. La radio adesso è 5, ce l'aveva troppo basso il microfono, adesso va bene. E beh Giuseppe, prova la televisione, io, dimmi avessi disturbi. Vado telecomando con l'UBTT del microfono già. Chi c'ha l'UBTT e c'ha Maganari. Cazzo, risate con Massimiliano. Poi lo accende e lo spegne dal picchetti del microfono. Una cosa allucinante. Per forza con quel cavo che aveva era un casino. E beh Giuseppe, cosa ci dici? Ma una gatta lo telecomando a me. E beh, funziona. Lo spegne lo stesso. Quell'antenna che c'hai sotto è un casino. Troppo attaccata, è troppo attaccata. Vabbè, fregatene dai. Modula per quanto puoi modulare, se no a futtidini. Mettilo in sesta marcia che ti vuole sentire Massimiliano anche. Mettilo in sesta marcia Giuseppe, in sesta al massimo mettilo lineare, prova a parlare. E Santiago 9 c'è qua, Santiago 9. Ma la radio è buona adesso, non distorce, va bene. Ma infatti cosa ti ne affutti? Se lo vuoi mettere in quinta lo me lo lasci in quinta, ma non lo usare in prima, in seconda, lascialo sempre in quinta, non lo toccare mai quello. Fregatene, quando attacchi devi attaccare boh. Vai già. Claudio, un attimino, sono tre. Anche da Massimiliano arrivi Santiago 9, ok? Va bene, Giuseppe. lasciano stare in quinta e già va bene così. Vediamo un po' se c'è Valerio. Come mai non mi hai telefonato a salire ad Alghero? Perché hai fatto fare tutto a loro? Giuse, aspettavo una tua telefonata io, come mai no? Non mi hai telefonato? E l'avrò fatto per non disturbarti. Vabbè, ma io volevo vedere cose che stavano facendo questi. Sì, magari fanno fastidio apposta, non ha cazzata. Comunque non riuscirà mai a uscire forte, se non c'ha un'antenna come ci deve, no, non ce la fa, nemmeno con lineare extra. Però a casa arriva così, arriva 4 e mezzo, là. Vabbè, la posizione è, tu sei dietro, ma l'importante è lo senti. No, poi arriva Santiago 9, anche da Massimiliano che sta uscendo. Ci entrerà dopo, mi ha mandato il video dello Smith, arriva Santiago 9, lo stesso. Anche più forte di me. Cormagno, va bene, va bene. Giuseppe, ho detto come mai non mi hai telefonato, aspettavo la tua telefonata per salire ad Alghero. Ah, ho capito, vabbè, quando è che te l'hanno fatto il lavoro? Oggi? Ah, ieri mattina che c'era quella bella giornata, va bene, va bene. L'importante è sia tutto a posto, poi con calma già mi avvicino io e vediamo se è tutto ok, capito? Non c'è problema, avanti Gianni. E io, interessa te che la Gianni va, là. Allora sei sceso apposta. No, vabbè, perché dovevamo vedere appunto se modificare un po' l'antenna, eccetera. Quella è la posizione sua, non è che c'è molto da modificare, capito? Vabbè. Mi ascolti bene col baracchino? Oh Giuseppe, sì, non sto usando quello grande, sto usando il piccolo, mi ascolti lo stesso, sì. Se no cambio, Giuseppe. No, già ho capito, ti accendo con quello grande, già sento la radio. Ho detto a me, mi senti bene lo stesso che sto usando il baracchino piccolo? Perfetto, quello volevo sapere, se avevi difficoltà cambiavo, commutavo con quello grande, capito? Avanti già. E io voglio sapere come ascolta a me Giuseppe, perché io l'ascolto bassino. E io sono Santiago di quanto, va. Però una voce rimane flippida, non è fortissima. E vabbè, comunque, adesso ti ascolto molto meglio di prima, dei passaggi che fa. Già, lui non è che parla come noi, capito? Voce ne ha poca, poi parla piano piano, quindi già infatti per quello gli ho messo un microfono amplificato, in modo che anche se parla piano si sente la voce abbastanza forte, se no col microfono normale a volte non lo sentivamo, capito? Aumentarlo non fa, perché sennò sfascia le orecchie a Valerio. Io glielo faccio aumentare, Valerio glielo fa abbassare e diventa un casino, invece così a due già va bene, dai. Vediamo un po' se c'è Valerio. Oh Valerio, non c'è, c'era poco fa, deve essere andato via Giuseppe. No, quello è Gianni, non è Roberto, Gianni doppio lui. Santiago 9 ti sta arrivando, hai visto? Il giorno che c'ero io arrivava Santiago 4, hai visto cosa vuol dire cambiare il cavo Giuseppe? Ma io è quello che perché già almeno 8, 9, 9 si attacca come sono adesso. Santiago 9 ti sta ricevendo, agganciato, va bene, ottimo segnale, per dove sei tu e per dove è lui, ma il giorno che hai fatto la prova con me, che io ero davvero con Massimiliano, arrivavi Santiago 4, capito, non più di 4, col cavo vecchio, hai visto cosa vuol dire mettere il cavo suo nuovo, che c'è anche più ricezione. Aiuto, sta salendo la temperatura, c'è termosifoni attaccati dalle 4, ancora siamo a 20 gradi. Ci ha messo un freddo cane fuori. Io ne ho uno che non sta funzionando. Già, stai attento, hai controllo, te lo farò controllare. Se sei intasato bisogna chiudere e pulirlo, perché può partire la lavavola, te la gara a casa. No, non è intasato, gli ho fatto lo spurgo e esce l'acqua. Intasato non è intasato, perché lo spurgato, pensando che ci fosse, infatti c'era un po' di aria, ma è stato con 2 minuti sempre buttando fuori aria e poi è uscita l'acqua sporca e poi è uscita quella pulita. E non sta riscaldando neanche così quando hai tolto l'aria? No. Che strano. No, io li spurgo ogni tanto, però sono tutti in funzione. Sono tutti in funzione. Bisogna vedere se il partitore che c'è fuori sta mandando, però se c'è l'acqua che... ma l'acqua c'è calda già? No, è fredda l'acqua. C'è fredda, dove c'è figlio qui sono caldi, che voce fuori. Esce aria fredda. Non vedo il manutentore, forse c'è domani mattina, stanno facendo manutenzione nelle altre caldaie, delle altre scale, io chiedo a vedere cosa può essere. No, perché se esce l'acqua e delle altre esce calda e stanno funzionando, non so come sono collegati. Lì non ho capito perché esce l'acqua, però esce fredda. È bello che quello che c'è più dei vini, quello della sala, che ha otto dei vini, 7 o 8 dei vini, adesso non mi ricordo esattamente, comunque è quello che ne ha di più. E ma infatti la cosa strana è che se esce l'acqua calda dagli altri, lì non esce, no, cioè esce fredda, non ho capito il perché. Intendo di queste cose, proprio questa idraulica di termosifoni, non è mai fatto, una volta che ha cambiato la cosa, ma l'aveva smontata il montantore perché ho manco chiavi c'ho per fare quelle cose. Va bene, va bene, io beh, se c'è caldo uno rimane aspetto, se abbia le luci, basta funzionano gli altri già. Già c'è caldo lo stesso. Avanti Giuseppe. Sì Giuseppe, ma anche qua a Sassari non pensare che almeno sia diverso, no? Anche a Sassari c'è freddo. Io ogni tanto apro la finestra perché a me il caldo non mi piace. Sono con una magliettina leggera perché c'è caldo dentro casa. Però quando apro la finestra entra questa aria fredda, quindi l'ho richiusa di nuovo. Tempo suo, adesso deve piovere di nuovo e così invasiamo un altro po' d'acqua e siamo tranquilli, capito? Non abbiamo il problema della siccità. Vai Gianni, no che non si intende di nessuno stasera. Aio, come mai siete tutti in letargo che sono le 7:10? Ah, Lucia, non ha gara nessuno. Capita, allucinante, va bene, va bene. Hai finito di bere, sì tu? Sì, la moglie, la festa, stasera, ciao Gianni, ciao a Giuseppe, Gianniero, ecco, finalmente sono riuscito a contarlo. Ciao, bra. Allora le prendo io, ciao bra, buonasera, ben sentito, e Giuseppe ha messo antena nuova, cavo nuovo. Adesso ce l'arrivo, dai, almeno si sente un po'. Io sto andando col Superstar, con 3009, MB più 5, watt sono 10, già mettendo lo mattessi. Sì, è un meno, si sente. È sempre sotto la radio. Io, beh, watt tratto solo quelli come uso sempre, meno è che solo questo c'ha più picco di modulazione. Da 10 watt va a 20, 25, capito? Perché quello corte, capito, di Massimiliano lo sto usando io, però è tutto chiuso. Ma potenza già pompa là. Vai Gianni! Ehi a Franco, dai! E stasera lavorate o no? Di mattina domani, non so se riesce a possibile fare a Marco. Ci siamo sentiti ieri dopo che è chiuso tutto. Aspettate un attimo, c'è gente, arrivo subito, vai bravo. Oh ragazzi, dai, io vi saluto momentaneamente e c'è gente. Ok, ci sentiamo semmai dopo se coincide. Ciao Giuseppe, ciao Franco, ciao Gianni, a dopo, dai. Se c'è gente, se no mi comprendo un accidente, no, vi ciao. Oh no. Claudio, ci sei? Già c'ho gente, capite? Non fa gente e quindi ho staccato, vai, se mai ci sentiamo dopo, ok? E allora chiudo là, che fa la mangiare la carne, mi lavo, tutto là, così ci vado all'appuntamento. Vai sereno, già, sono riunioni aziendali che si fanno, non ti preoccupare. frontiera, ci sentiamo dopo già, perché è arrivata gente, aspetta un po' così, ok? Vai, a dopo, se coincide, se no domani, ciao. Ciao, ciao. Accendono, c'è un problema qui e là, capito? Vabbè, dai, ok. Ok José, io ti lascio che vado a cenare, che sono già le 8:10, ok? Ci sentiamo domani, va bene? Dai, fatti sentire, adesso già c'hai tutto in ordine, poi già mi avvicino io e vediamo insomma di fare le altre cose che ci sono da fare. Ricordati domani, se c'hai tempo, fattene quello più lungo che hai, eliminalo lo spezzone e fattene uno da 65, sempre dispari. 35, 45, 65, capito? Non salire più di 65 o Giuseppe, anche troppo grande. Se riesci a farlo da 45 misurato, lasciando perdere le testate dei PL, va meglio, perché così tra amplificatore e radio hai meno dispersione, quello è troppo lungo. Perfetto Giuseppe, siccome appunto lo so che la distanza è breve, non le mettere le spezzoni lunghi, mettili i più corti possibile. Capito? Ne fai uno da 45 e lo metti, eh? Quello da 100 che c'hai lungo, quello lo tagli e lo accorci e le risaldi il PL e lo fai da 45 che va benissimo. Ok Giuseppe, un abbraccio, buonanotte, ci sentiamo domani, ok? Ciao Giuseppe, buonanotte.